2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati o benvenuti, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Siamo in onda come sempre il venerdì tra le 22 e le 23, domenica alle 13:10. Poi trovate una ricca versione digitale online, il nostro file MP3, il nostro super podcast con tutte le nostre interviste in edizione integrale. In questi giorni di emergenza, soprattutto in Lombardia e Veneto, come ha reagito il traffico sulla rete internet? Visto che si è parlato di smart working, o meglio di telelavoro, però ho chiesto alle principali aziende italiane che coprono gran parte del mercato internet in Italia cosa hanno registrato le loro reti. Partiamo da TIM, che ci ha risposto in modo molto puntuale con alcuni numeri interessanti. Ricordo che TIM è il principale operatore negli accessi di rete a banda larga in Italia con il 43,3% del mercato secondo gli ultimi dati Agicom. Nei primi tre giorni della settimana TIM ha registrato nella fascia oraria 9:30, 16:30 un incremento di circa il 35% sul traffico in banda larga a livello nazionale e un incremento di circa il 20% del traffico nell'arco delle 24 ore rispetto agli stessi giorni della settimana precedente. Gli incrementi più significativi si sono registrati nel nord Italia con punte di aumento dei consumi di oltre il 60%, in particolare nelle centrali di Milano che raccolgono anche il traffico della provincia di Lodi e di Bergamo. E quindi questo è un dato interessante, molto evidente, dati sicuramente dovuti ad un aumento del lavoro a distanza, ad un maggior accesso a siti di notizie per essere sempre aggiornati e anche ad un aumento di intrattenimento, visto che gli studenti erano a casa e poi magari qualcuno è stato a casa e ha approfittato per guardare magari un film durante la giornata. Dati interessanti. Proseguiamo con Wind3, che ci ha comunicato che c'è stato solo un lieve rialzo del traffico, niente di più, mentre Fastweb ha registrato un aumento fra il 5 e il 10% nelle ore diurne, cioè le ore lavorative. Comunque un aumento di traffico in generale per quanto riguarda la rete internet che non ha di fatto messo sotto pressione le reti degli operatori. Molto probabilmente di telelavoro si è parlato molto, ma non se ne hanno fatto le grandi aziende che già comunque lo facevano, ma non c'è stato questo aumento, questo picco di traffico esagerato. Adesso altre notizie selezionate durante la settimana, in breve nelle nostre Digital News. Digital News. Iniziamo da Ericsson, che ha pubblicato un rapporto che analizza in modo scientifico le emissioni di CO2 del comparto ICT, Information and Communication Technology. Il report, tenendo conto del consumo di elettricità per l'utilizzo dei prodotti e le emissioni di gas serra associate all'energia e ai materiali utilizzati durante l'intero ciclo di vita di un prodotto, ha calcolato che il footprint, quindi l'impronta del settore ICT, è fermo all'1,4% delle emissioni globali, nonostante la continua crescita del traffico dati. Dal 2010, scrive Ericsson in questo rapporto, il traffico dati totale è aumentato di circa 10 volte, mentre il consumo di elettricità per il settore ICT è rimasto costante. Questo è un dato interessante, l'1,4% delle emissioni globali. Altri calcoli, ad esempio l'ITU, l'International Telecommunication Unit delle Nazioni Unite, calcola, tenendo conto e presente di tutto l'IT, e quindi non solo l'ICT, che le emissioni globali siano attorno al 2,5% per quanto riguarda appunto tutto il mondo della tecnologia, insomma, tutto compreso. Quindi stiamo parlando di emissioni tutto sommato abbastanza contenute e sicuramente in questo settore si è fatto moltissimo per risparmiare energia e quindi anche le emissioni. Certo, non tutte le emissioni sono legate al consumo energetico, ma buona parte sì. Parliamo di alcuni finanziamenti. Come sempre segnaliamo i finanziamenti sia a livello locale che a livello globale, quelli di una certa rilevanza. Pony AI, che è una startup cinese specializzata in sistemi per la guida autonoma, ha annunciato di aver raccolto la cifra piuttosto ingente di 462 milioni di dollari in un finanziamento guidato dalla giapponese Toyota, che da sola ne ha investiti 400 di milioni in questa startup cinese. Un'altra startup californiana, Samba Nova Systems, invece specializzata in intelligenza artificiale, ha raccolto 250 milioni di dollari in un finanziamento guidato da BlackRock, che si occupa di finanza. Un altro colosso finanziario giapponese, la gigantesca SoftBank, continua ad investire in startup tecnologiche e ha annunciato di aver iniettato 100 milioni in BAVOX, che sta a New York, e anche in questo caso parliamo di intelligenza artificiale. Secondo Counterpoint, l'iPhone XR è stato lo smartphone più venduto nel 2019 in tutto il mondo, seguito da un altro iPhone, l'11, e da Samsung Galaxy A50 e A10. Apple vince grazie ai volumi che riesce a realizzare negli Stati Uniti, mentre Samsung vince in Europa perché l'A50 è il telefono più venduto in Europa. L'unico telefono cinese fra i primi 10 al mondo è l'Oppo A5, che è anche il telefono più venduto in Cina. La cosa interessante è che nel mercato degli smartphone c'è così tanta frammentazione che il prodotto più venduto al mondo, cioè l'iPhone XR, ha il 3% del mercato. In generale, i 10 smartphone più venduti al mondo rappresentano il 15% dell'intero mercato globale. A proposito di classifiche, interessante quella di IHS Markit per il mercato dei televisori. Samsung è numero 1 al mondo per il 14esimo anno consecutivo, con quasi il 20% del mercato, anche se a valore questo 20% sale al 30%, quindi significa che Samsung riesce a vendere TV di fascia alta rispetto, più TV di fascia alta rispetto ai concorrenti. Dietro Samsung ci sono LG con il 12,2% del mercato, ma il 16,3% a valore. Poi i produttori cinesi TCL con il 9,2%, Hisense con il 7,8% e Xiaomi con il 5,8%. Interessante il caso di Sony, che con percentuali più basse rispetto a quelle che abbiamo citato poco fa in termini di pezzi consegnati, riesce invece ad essere il terzo produttore di TV al mondo per valore con il 9,4%. Quindi anche Sony riesce, del resto insomma sappiamo la storia di Sony, che riesce a vendere prodotti premium di alta qualità e di alta fascia, anche di prezzo ovviamente. Ricorderete probabilmente Clearview AI, la startup che vende software di riconoscimento facciale alle forze dell'ordine degli Stati Uniti e anche ad altre società, che è diventata nota dopo uno scoop del New York Times. La società ha subito un attacco informatico ed è stata sottratta alla lista dei clienti come forze di polizia e anche banche. Il database, che contiene circa 3 miliardi di fotografie, non sarebbe stato compromesso, però c'è una certa preoccupazione perché questo database, che tra l'altro è fortemente discusso perché questi hanno preso fotografie di tutti quelli che hanno trovato sui social network e alcuni social network si sono anche lamentati per questo, comunque insomma è abbastanza preoccupante che questa azienda sia stata hackerata, anche se loro dichiarano che il database non è stato colpito. Notizie dall'Italia: arriva nel nostro paese un nuovo operatore mobile virtuale, si chiama Very Mobile e utilizzerà la rete di Wind 3, visto che fa parte dello stesso gruppo. E alcuni si potrebbero domandare: ma c'era proprio bisogno di un altro operatore mobile virtuale? Boh. Un aggiornamento sull'asta 5G in Francia: il regolatore francese ARCEP ha detto che Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange e SFR hanno fatto una offerta per le frequenze 5G che dovrebbero essere assegnate in giugno. Con migliaia di ragazzi e bambini a casa da scuola in questi giorni si fa presto a dire facciamo lezione a distanza. Ma questo è un percorso che andrebbe fatto con calma, con un coinvolgimento di tutta la scuola. Comunque, dal punto di vista tecnologico, che cosa significa scuola digitale? di che cosa hanno bisogno scuole, alunni e docenti per imparare, studiare e insegnare online. E poi, scuola digitale è sinonimo di scuola online? Ne ho parlato con Marco De Rossi, il giovane fondatore di WeSchool, e a proposito del fatto che è giovane, la prima domanda che gli ho fatto è: da quanti anni si occupa di scuola digitale e quanti anni ha? Ne ho 29, da 15 anni. Sono partito dagli studenti, perché quando sei studente vuoi cambiare il mondo solo con loro, e con dividendo testi e video scolastici poi ti accorgi che in realtà la scuola, per cambiarla, devi cambiarla con i docenti che la fanno tutti i giorni la mattina, e che bisogna cambiare anche proprio le metodologie e il modo di pensare. La tecnologia è una parte, ma poi il modo di pensare è il vero motivo per cui a volte le cose non succedono. Noi chiamiamo alcuni dei fenomeni che accadono nella scuola scuola digitale o e-learning. Facciamo un po' di chiarezza. Che cos'è la scuola digitale? La scuola digitale è un docente che prevede e ridisegna il percorso di apprendimento, che non è solo in classe, anche il pomeriggio quando studi, anche i compiti, le verifiche, le competenze, utilizzando degli strumenti digitali che aumentano l'ora fatta in classe e ti portano, a te docente, a non fare più solo il solito frontale, io parlo per un'ora e non so bene che feedback ho, chi sta capendo, chi no, ma far collaborare più le persone. E tra le tante cose che si possono fare, il punto comune secondo me è proprio che il digitale, aumentando le interazioni, diminuisce la possibilità che lo studente stia disattento, e questo, anche quando io ero un studente, è un po' il grande problema. Quindi molto spesso, almeno io, confondo o interpreto la scuola, la digitalizzazione della scuola, molto spesso come scuola a distanza. Non è così, o non è solo così. No, anzi, forse è la parte più noiosa, perché sei da solo a casa davanti a un computer. Il digitale può aiutare la didattica anche quando hai i ragazzi davanti. Ti faccio un esempio: i lavori di gruppo, che all'estero sono molto più frequenti, si fanno col digitale, sono uno straordinario strumento per portare i ragazzi a fare, non soltanto ad ascoltare. Se sto spiegando e voglio capire chi ha capito e chi no, senza aspettare il 5 della versione di due mesi dopo, posso fare delle domande in tempo reale col computer che mi aggrega i risultati. È anche forse la parte più divertente, no? E i ragazzi parlano già e masticano questo linguaggio. Esistono già delle piattaforme, degli strumenti che ti permettono di fare tutte queste cose in aula e poi anche a distanza? A distanza vuol dire non solo quando faccio lezione, ma anche per avere dei feedback durante la settimana di altro genere, magari che aggrego durante la settimana. Sì, ci sono tanti strumenti, ci sono alcuni strumenti che noi tutti utilizziamo anche nella vita personale o nel mondo del lavoro, come Dropbox, Skype, Google Drive e la mail, che vengono effettivamente massivamente usati nel mondo della scuola, e poi ci sono delle piattaforme ad hoc. Le più diffuse in Italia adesso sono la prima è sicuramente Google for Education, poi WeSchool, la nostra 100.000 docenti a bordo, la suite di Microsoft Office 365 molto diffusa per le scuole, e infine Edmodo, che adesso è cinese e che è abbastanza diffusa. Poi arriviamo anche alla piattaforma vostra, ma molte di queste piattaforme, o meglio alcune di queste piattaforme, sono gratuite. Per quale motivo? Una grande azienda dovrebbe mettere a disposizione una piattaforma gratuita alle scuole, e ovviamente poi le scuole, con tutte le difficoltà anche economiche che hanno, sono molto hanno un grande appetito di cose gratuite. Sì, culturalmente i contenuti sono a pagamento e le piattaforme sono gratuite. Questo è quello che percepisce il mondo della scuola. Anche io personalmente ho provato a far cambiare idea su questo, ma è difficile. Aziende, grandi incumbent come Apple, Google e Microsoft regalano questi software al mondo della scuola, sia come anche responsabilità sociale d'impresa per avere un impatto sociale, sia perché crescono delle generazioni di persone abituate ad utilizzare questi strumenti, che poi, entrando nel mondo del lavoro, magari continuano a usare pagando una licenza. È un po' quello che faceva Microsoft anche fin dagli anni 90, regalando Office alle scuole. Nulla di nuovo da questo punto di vista. Mi fai degli esempi di scuola digitale all'interno della scuola, quindi delle mura scolastiche, di che cosa si può fare e di che cosa poi anche voi con WeSchool aiutate a fare, e poi passiamo al mondo della scuola in remoto, che tra l'altro è uno dei temi di questi giorni. Poi vedremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, come si evolverà. Certo, allora si possono fare tante cose, siccome è importante non essere talebani, ogni docente deve decidere quanto andare in fondo. Quindi il primo step è portare la classe online, quindi gli studenti si registrano ed entrano a far parte di una sorta di social network. Il secondo step è sostituire la fotocopia con la condivisione di materiali digitali. Qual è il pro? Posso includere anche siti web di terze parti, video, giochi, insomma aumenta di parecchio la possibilità rispetto al semplice pezzo di carta. L'ulteriore passo avanti è discutere intorno ai contenuti. L'aula esce dall'aula e quindi magari quando nel pomeriggio ho un dubbio sulla fotocopia, il video che sto guardando, posso direttamente chiedere ai miei compagni e al docente. Questo espande tantissimo le mie possibilità e l'efficacia dello studio individuale. Il passo ulteriore di solito è le verifiche, fare le verifiche col digitale. Questo aiuta il docente nella fase di correzione per quanto riguarda verifica e risposta chiusa. E le cose invece più avanzate, che non ti nascondo, ancora oggi fanno soltanto una piccola parte dei docenti, sono utilizzare il digitale per i lavori di gruppo e quindi invece che insegnarti l'HTML per fare i siti web in modo statico, ti dico trova un esercizio commerciale vicino a casa tua che ancora non ha un sito web e tu, gruppo della classe, un gruppo di 5 ragazzi, crea il sito web e per questo il digitale è perfetto. E la metodologia digitale forse più nota è la classe capovolta, e cioè fare la teoria a casa col digitale e poi utilizzare il momento in aula per approfondire e fare domande. E infine ti cito un metodo in cui credo molto che è il teach to learn, cioè il docente che chiede a uno studente o a un gruppo di studenti di insegnare agli altri studenti. Non è perfetto quello che diranno, ma il processo attraverso il digitale che li ha portati a dover parlare di qualcosa è molto istruttivo per loro. In tutto questo il digitale non è fondamentale, si potrebbe fare anche con carta e penna, lo diciamo sempre ai prof che si spaventano, ma è chiaro che aiuta tantissimo. Certo, anche perché tutti gli studenti ormai sono abituati ad avere in mano uno strumento. A proposito di strumenti, tendenzialmente, in base alla tua esperienza, si fanno queste cose anche più naturalmente con gli smartphone, i tablet, i computer portatili, i computer fissi, che sono una cosa un po' antica per certi versi. Allora, io sono un dinosauro e in realtà preferisco il portatile, devo dire. In realtà, Sono un dinosauro e hai 29 ho anni. 29 anni. Storicamente, insomma, da tanti anni il Ministero ha insistito molto dicendo che lo smartphone non è lo strumento elettivo per la didattica digitale, che bisogna preferire tablet, computer fissi e LIM, ed è per questo che gli investimenti infrastrutturali poi sui device sono andati sempre in questa direzione. In realtà molto si può fare anche con lo smartphone, pensando proprio anche esperienze ad hoc. È chiaro che dipende molto anche dal linguaggio del docente, dalla sua voglia di sperimentare in questo senso. Però è interessante perché gli smartphone ce li hanno tutti, tutti hanno una connessione, quindi sarebbe secondo me uno strumento, e WeSchool abbiamo pensato esattamente così, per bypassare il problema di investimenti sui device. Usiamo gli smartphone che i ragazzi già hanno. Secondo me è un'emergenza perché da troppi anni parliamo di questo grande passo del digitale nella scuola, non succede, facciamolo con quello che abbiamo. Certo, non andiamo oltre perché ci sono anche molte scuole dove gli smartphone vengono ritirati ad inizio lezione, quindi la LIM, quindi questa lavagna digitale, è lo strumento elettivo. Sì, su questo facciamo chiarezza. Il MIUR ha detto ufficialmente, il Ministero, già da alcuni anni, che il docente può dire che lo smartphone in una specifica lezione fa parte della didattica. Quindi tutti i docenti che credono di non poterlo fare, ecco, no, non è così. La limitazione invece strutturale che rimane è quella della banda, perché non sempre i cellulari prendono e quando leggete le statistiche secondo le quali quasi l'80% delle scuole sono collegate a internet, si parla di quella connettività che può andare bene per il registro elettronico, una fibra per il corridoio, una fibra per l'intera scuola. Se vogliamo fare la scuola digitale, dobbiamo permettere a tutti i ragazzi di una classe di vedere video in contemporanea e per questo serve una 100 megabit per ogni aula e su questo siamo veramente indietrissimo. Quindi la banda serve anche quando si fa lezione in classe, non solo come uno potrebbe immaginare per fare lezioni in remoto, anzi forse in quel caso ne serve meno. Adesso me lo dici tu. E sì, su questo arriviamo ai temi di grande attualità. È chiaro che se il ragazzo è a casa, utilizza la sua connettività di casa che è più distribuita, non sono tutti quanti nello stesso punto e quindi il problema non si pone. Il ministero sta valutando per settimana prossima, nessuno sa ancora quali e dove scuole riapriranno, la scelta spetta alle regioni che decideranno insieme al Ministero della Salute, però il ministero sta proprio prevedendo un piano che permetterà ai docenti di continuare le attività da remoto. Con WeSchool che cosa fate? Che cosa date ai docenti e agli alunni? Diamo la piattaforma per portare le classi online, spiegare da remoto, fare verifiche, test, rispondere a dubbi, chattare e fare i lavori di gruppo. E in particolare per questa emergenza, sotto uno stimolo di Ilaria Capua, insieme a tutta una serie di player privati italiani e internazionali, annunceremo lunedì una community per supportare i docenti che vogliono fare didattica digitale. Qual è il problema? Molti docenti già lo fanno, ma quelli che lo fanno poco si ritrovano a casa propria a dover dal nulla comunicare con altri studenti e non è banale per nulla e necessitano di un aiuto forte, immediato anche dai loro pari e per questo abbiamo pensato di mettere insieme guide e documentazioni in collaborazione anche con i nostri competitor per fare un help desk unico centralizzato che supporti i docenti in cui ad aiutarli ci sono anche gli altri prof perché chi meglio di loro può aiutarli a implementare effettivamente una didattica diversa in una questione e in un contesto di emergenza, quindi sappiamo che quello che succederà la settimana prossima è perfettibile naturalmente, però ci mettiamo insieme tutti quanti e facciamo quello che possiamo. Certo, sicuramente lodevoli tutte le iniziative per questa emergenza di questi giorni, ma la scuola digitale, tutti i temi legati alla scuola digitale sono temi come lo smart working nelle aziende che vanno digeriti e introdotti a scuola o nelle aziende con tempo, perché è anche un processo culturale, non solo tecnologico. Sì, diciamo che, ecco, da addetto ai lavori è veramente un peccato che per fare la scuola digitale sia necessario aspettare il virus, ecco, è veramente spiacevole. Torno sul tema delle piattaforme. Sono di più le piattaforme che ti permettono di fare tutto, quindi con un unico prodotto io faccio tutto quello che è necessario per fare lezione in classe, condividere informazioni, fare test e fare anche la scuola a distanza, o più spesso le esperienze sono basate su multipiattaforme, tanti strumenti che metto assieme. Lo strumento per fare la video lezione, lo strumento per condividere documenti, eccetera, eccetera. Allora, ci sono strumenti singoli che permettono di fare cose singole, tipo per fare quiz e domande si usa molto Kahoot, per mettere insieme contenuti si usa molto Padlet. Sempre di più, dato che i docenti non vogliono ricordarsi 200.000 password e username, gli studenti anche. Si tende verso queste piattaforme uniche, che sono quelle di classe digitale, come appunto quelle di WeSchool, Google, Microsoft, eccetera, e rimangono abbastanza autonome le piattaforme di videoconferenza, che perché hanno delle complessità particolari, quindi rimangono abbastanza separate, e poi rimangono altrettanto autonome quelle degli editori. Che tendono a preferire mantenere il loro libro digitale aumentato in una piattaforma separata. Il mio sogno, quello che sto cercando di fare, è convincere anche gli editori a portare i loro contenuti in queste piattaforme di classe digitale, che diventano veramente l'ambiente di collaborazione intorno all'imparare. E secondo me dare ai docenti questi strumenti semplici come quelli che usano nelle loro vite personali e integrati è un passo importante per convincerli a fare il grande passo. Senti, il mondo open source, che non necessariamente, lo ricordiamo sempre, non è necessariamente è mondo gratuito, potrebbe essere in alcuni casi gratuito, ha un ruolo in tutto ciò o le piattaforme cosiddette proprietarie, perché anche la vostra è una piattaforma proprietaria, ve la siete creata e sviluppata voi, ha un ruolo l'open source oppure poco? In questa industry devo dire come numeri molto poco, nel senso che c'è un grande player che si chiama Moodle, che è la piattaforma di learning nata, ma credo abbia quasi la mia età, nel senso che è tipo nata nel 97-98, e che è una piattaforma che è utilizzata tuttora da alcune scuole, da molte università, e che è molto potente, però è pensata per l'era del desktop, quindi ha un'interfaccia abbastanza complicata. E qual è il problema? che deve essere gestita, perché come tutte le piattaforme open source ci vuole un sistemista, un programmatore che la gestisca, e questo la rende non idonea a una scuola superiore, a una scuola media, appunto solo a un'università, perché come sappiamo in una scuola c'è un miracolo se c'è la carta igienica, figurati se c'è un sistemista, ecco. Sì. Tornando sulla vostra piattaforma, anche sulle altre piattaforme che permettono di fare lezioni a distanza, vuol dire, significa che gli studenti vedono il docente, ma lui può vedere ogni singolo studente? Magari dico una banalità, ma forse non è per tutti una banalità. Allora, l'importante, quella confusione che si crea di solito, più che chi vede è cosa senti, quindi tutti quanti devono essere in muto per capirci, e il docente parla e poi a turno si fanno le domande. È per capirci qualcosa di analogo agli strumenti che si usano per le videoconference di lavoro. Il problema è che appunto che basta solo che uno o più studenti non abbiano una buona connessione a casa loro da rendere più complesso lo svolgimento della lezione. Però insisto, anche per settimana prossima, didattica a distanza non vuol dire solo stare fermi e guardare il prof che parla da remoto, perché questa è la riproposizione della didattica frontale tradizionale che va innovata. Si può fare didattica a distanza condividendo materiali, anche video, magari facendo un breve frontale, ma poi continuando per tutto il resto della giornata lavorando in team su documenti, studiando, ripassando, facendo verifiche. Per gli insegnanti in generale è una sfida pazzesca, non è facile, no? Non è facile, è una sfida prima di tutto relativa a voglio cambiare il modo in cui lavoro, e devo dire che in realtà in questi anni le cose sono molto cambiate e i docenti che si mettono in gioco sono veramente, veramente tanti, quindi sono ottimista, devo dire. Ti faccio un'ultima domanda. Per capire quale può essere lo sviluppo nei prossimi anni e anche quello che si sta facendo negli altri paesi. Nella scuola tradizionale lo Stato mette a disposizione l'infrastruttura e i docenti, poi bisogna comprare i libri, quindi i contenuti vengono forniti da terze parti. In questo mondo vediamo che invece una parte dell'infrastruttura la forniscono delle aziende private. Avrebbe senso che lo Stato, il Ministero, fornisse l'infrastruttura per fare la scuola, per digitalizzare la scuola? Ogni paese ha un approccio diverso anche per cultura politica. Il nostro, legato proprio agli avvenimenti storici di metà Novecento, è un approccio in cui comanda il docente, il consiglio di classe, che ha totale autonomia sui contenuti, come sappiamo, sull'adozione dei libri. Per questo motivo il MIUR non ha mai voluto spingere una singola piattaforma, né lo farà mai, e tutto sommato credo sia positivo. È anche quello che ha permesso a una startup come la mia, senza entrature, di andare dai prof e dire ho un prodotto che è molto bello, usalo. Quindi non mi aspetto che succeda. La Francia ad esempio ha un approccio molto più centralizzato. Quello che deve succedere in modo centralizzato, sta già succedendo ma deve succedere meglio, è proprio l'incentivo ai docenti per lavorare meglio, perché diciamocelo, sembra l'elefante nella stanza dei cristalli, continuare a parlare di come cambiare la didattica, di come cambiare la scuola, senza parlare degli incentivi ai docenti che possono lavorare come lavorano e hanno sempre lo stesso stipendio e hanno tra gli stipendi più bassi d'Europa, è secondo me abbastanza ipocrita. Quindi il ruolo del ministero deve essere quello di incentivare i docenti e poi di lavorare molto sulla formazione. È naturale che poi magari a infrastrutture e contenuti ci pensi la industry e i docenti scelgano quello che preferiscono. E questo era Marco De Rossi, fondatore di We School. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24. Adesso per noi c'è una breve pausa, riprendiamo tra poco. Benvenuti o bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Io sono Enrico Pagliarini, potete raggiungermi scrivendo a 2024@radio24.it. Potete scegliere anche Facebook, Twitter o LinkedIn. Vi ricordo anche che, come sempre, la nostra puntata è disponibile in versione super podcast online sul nostro sito internet, sulla nostra applicazione per smartphone Android o iOS, oppure sulle tante piattaforme audio, a partire da Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, eccetera, eccetera. Ce ne sono veramente tante, potete scegliere quella che preferite e più vi piace. Luca Spada, benvenuto, bentornato, fondatore e amministratore delegato di Eolo. Grazie. Voi siete, come dicono quegli esperti, un WISP. Una volta c'erano solo gli Internet Service Provider, poi nel corso degli ultimi 10-12 anni, diciamo così, sono nati anche operatori wireless. Ricordiamo che cosa fate. Siete noti, ma ricordiamolo. Anche noi eravamo degli ISP, poi nel 2007 siamo partiti con questa rete wireless in risposta a una sempre maggiore domanda da parte dei clienti che avevamo allora, che volevano avere la DSL, di avere una connettività veloce. Nel 2007 è un po' stato l'anno zero in cui è nato il Digital Divide in Italia, perché l'operatore incumbent, l'operatore nostro principale Telecom, aveva portato la DSL in città, ma fuori nei piccoli paesi di cui l'Italia è ricca navigavano ancora con i modem di una volta. Allora sempre più clienti chiedevano una connessione veloce e l'unico modo per portarli era utilizzando le onde radio. Ed è esatto. Così che ci siamo messi a fare i primi test ad allora con apparati comprati dall'estero. Abbiamo visto che funzionavano bene e pian piano abbiamo costruito una rete e sostanzialmente noi oggi diamo una connessione a 100 megabit ai clienti mettendogli una piccola antennina sul tetto e poi un bel cavetto che scende in casa e illumina in wifi il servizio. Casalino. Quindi voi avete antenne sparse un po' in tutto il territorio? Sì, noi oggi abbiamo circa 3.000 ripetitori da nord a sud, da ovest a est che illuminano tutte le regioni italiane. Centro-nord, dove siamo nati, siamo molto forti. A dicembre abbiamo raccolto un nuovo round di finanziamenti da 155 milioni di euro che utilizzeremo principalmente per coprire le ultime regioni del sud che ci mancano, soprattutto col servizio di cui oggi siamo, diciamo, molto soddisfatti, che è un servizio, una tecnologia che abbiamo sviluppato noi insieme a diversi operatori, che si chiama Eolowave G, che consente di avere 100 megabit di banda anche nei territori rurali, dove oggi c'è una connettività su cavo che va decisamente più piano. Certo, giusto per fare un paragone, per far capire completamente i nostri ascoltatori, fondamentalmente avete una rete che è simile a quella della telefonia mobile, però richiede un'antenna fissa. Corretto, diciamo che la nostra rete allora ha ripetitori che sono dei pali o dei tralicci che sono collegati al resto della rete principalmente in fibra ottica ad alta velocità o quelli più remoti con dei ponti radio ad alta capacità. Poi da questi tralicci, usando le onde radio, arriviamo a delle antenne che sono posizionate sui tetti in modalità fissa. Quindi diciamo che per ricevere il nostro segnale non si riceve quel telefonino della situazione, ma con un'antenna tipo quelle che su tutti i tetti degli italiani c'è un palo, perché noi il sistema televisivo in Italia non si è sviluppato sul cavo coassiale come in altre nazioni, ma con col wireless, e quindi noi utilizziamo quel palo per raggiungerci anche la nostra antennina e da quella arriva il segnale internet con una stabilità e una modalità molto Senti, efficiente. Questo sistema dove non funziona? O dove è meno efficiente, dove può avere dei problemi? Dove diciamo ha poco senso usarlo è in città. Perché il fixed wireless, come si chiama, FWA, visto che ormai questo termine sta per essere sdoganato. Sì, per i meno, come dire, per chi non ha visto il Festival di Sanremo, sappiate che Telecom Italia ha fatto addirittura una pubblicità scrivendo FWA, sì, che è questa tecnologia di cui voi siete, wireless access, che è un po', insomma, di cui siamo i pionieri. Noi 13 anni che lo facciamo, quindi conosciamo bene il mestiere. Ecco, in città non è che non funziona, ma il fixed wireless va bene quando c'è una densità di popolazione tipica del piccolo paese o delle case sparse. In città la tecnologia che ha assolutamente senso usare è la fibra ottica, dove per diciamo numerosità di utenza e densità ha una sua economia di scala, un suo ritorno dell'investimento, tanto è che sia Telecom Italia, Open Fiber, Fast, insomma una moltitudine gli operatori la stanno installando, ed è l'architettura assolutamente più future proof che possiamo avere e quella più performante. Viceversa, il wireless, soprattutto in Italia, dove abbiamo 7.200 comuni sotto i 10.000 abitanti, e complice il fatto che è un bellissimo paese, abitiamo molto sparpagliati vicino a montagne, valli, colline, eccetera, il wireless qua si esprime al meglio. Certo, questa è stata la vostra fortuna, cioè l'orografia del territorio, la distribuzione delle case sul territorio è stata diciamo, uno degli ingredienti fondamentali. Adesso, magari fortuna è un termine che non ti piace, dice, ma noi abbiamo fatto apposta, cioè come dire, l'avete fatto pensandoci, c'è un business plan dietro, non è che è venuto per fortuna. Esatto. Senti, ma adesso che la fibra ottica e i piani di sviluppo di Open Fiber sono così pervasivi anche in territori poco abitati, per voi sarà un problema? Ma direi di no. Tu ti metti a ridere? No, beh, Open Fiber è assolutamente un nostro partner, un nostro fornitore. Ricordo il fatto che Open Fiber nei cosiddetti cluster C e D, cioè diciamo i piccoli paesi, le famose zone a fallimento di mercato, le famose zone a fallimento o le aree bianche, come si vogliono chiamare, lì sta eseguendo una rete che è di proprietà pubblica, di cui poi sarà concessionaria per 20 anni almeno, per effetto dei bandi che ha vinto. Questa rete dovrà essere data a modalità all'ingrosso, a pezzi, agli operatori che ne fanno richiesta. Okay? I cui poi operatori andranno a realizzarci i propri servizi. Nel senso che Open Fiber non può andare a vendere direttamente all'utente finale, ma lo fa un operatore come noi o chiunque altro che, comprando pezzi della rete di Open Fiber, di altri operatori e della propria, realizza il suo servizio. Okay. E su questo, tra l'altro, Open Fiber è stata chiara nel dire che circa un 20% del territorio non lo compriranno con una rete FTTH, cioè fibra fino in casa, ma in modalità wireless, cioè portando la fibra ai tralicci, okay. E poi dopo da lì ci devono essere gli operatori che finiranno il servizio. Quindi utilizzeranno la tecnologia tipo la vostra? Sì. O la vostra? Diciamo che dove c'è già un altro operatore presente, la tecnologia è quella dell'operatore presente. Il ruolo di Open Fiber è quello di abilitare la rete a essere di prossima generazione, quindi il loro ruolo è quello di una rete passiva, fibra ottica fino alle torri al traliccio. Dopodiché gli operatori da lì in avanti accenderanno i loro servizi. Certo. Senti, il 5G vi... Adesso stiamo parlando anche qui di un progetto che ci impiegherà anni per vedersi diffuso su tutto il territorio, però potrebbe essere una tecnologia che vi fa concorrenza? Ma il 5G... io che sono un tecnico, quando Spada ne sento parlando su 5G veramente se ne dico in tutti i colori, no? Oggi è una sigla dove ci possiamo attaccare qualsiasi declinazione. Ma diciamo che se lo analizziamo per quello che realmente è, cioè l'evoluzione di un protocollo di mobile essenzialmente come il 4G, il 5G quando verrà messo a terra consentirà a i dispositivi che oggi utilizziamo, che sia uno smartphone, un tablet o quant'altro, di andare più veloce, ok? 5-6 volte più veloce. Poi l'altro benefit che porterà, che forse è il maggiore, è il fatto di poter gestire con elevatissima contemporaneità tantissimi oggetti che oggi non sono persone, ma che saranno cose, che possono essere sensori piuttosto che sistemi di tracciamento di persone, cose, macchine, i droni che genere, volano, sì, le sì, macchine, sì, eccetera, che forse è il più grande limite che ha un sistema 3G e 4G oggi, nel senso che attaccato a una cella radio di un 4G oggi non ci puoi collegare un milione di SIM, fammi dire questo certo, termine che lo capiscono un milione tutti di oggetti, certo, esatto, sì, perché sì, quella cella lì scoppia, sì, viceversa sì, il 5G permetterà di scalare in molto di più, quindi certo, sostanzialmente di non avere solo come mobili degli individui che usano il sistema attraverso uno smartphone, ma un numero infinito certo di oggetti. Questo vi fa concorrenza, cioè può essere una tecnologia che in qualche modo erode il vostro business? No, ma anche perché noi negli upgrade che faremo nella nostra rete, anche noi andremo verso una tecnologia, un protocollo, che lo chiamo per quello che è 5GNR, perché comunque ha una buona efficienza, col fatto che si produrranno tantissimi di questi chipset costeranno meno, diciamo che quello che cambia è le finalità di utilizzo, perché se quella tecnologia è utilizzata in una modalità fissa, come lo utilizziamo adesso, quindi con l'antenna fissa sul tetto, eccetera, può soddisfare le esigenze di banda di un utente fisso. Se invece è indirizzata a un'utenza mobile, è un'evoluzione del 4G. Okay. Quindi per noi non è... Faccio un ultimo inciso, sì, giusto per capire le dinamiche. Oggi mediamente un'utenza mobile, cioè uno smartphone. Noi oggi con il nostro telefonino consumiamo al mese mediamente 4 giga. 4-5 giga. Mediamente, poi i ragazzini invece... No, no, dico la media, è quella. Poi c'è il ragazzino, ma nessuno riesce a superare i 30-40 giga che ci sono come... È veramente impossibile. Cioè, a meno che non usi il telefono come access point di casa, ma se no è impossibile. Viceversa, un utente fisso, cioè che ha oggi la fibra, la DSL veloce, piuttosto che il fixed wireless, e fa streaming, è sui 250 giga al mese. Pazzesco. Okay? Se noi media, Media, 250 giga, poi i picchi di chi consuma 1000 giga, 1 terabyte. Ecco, tutto questo consumo, oggi una rete mobile non riuscirebbe a soddisfarlo, che andrebbe in saturazione, e un domani farebbe fatica anche una rete 5G progettata per il mobile. Okay? Anche lì poi i consumi aumenteranno, eccetera, non ci sta. Le reti FWA fisse vengono fatte, progettate in un modo tale da poter garantire un'elevata quantità di giga mese di consumo. Dunque, visto che hai citato il consumo delle case, anche voi state sperimentando, soffrendo, non so se utilizzare anche questo termine, l'esplosione del traffico degli ultimi anni dovuta allo streaming video, giusto? Sì. Confermi. Tant'è che vi siete impegnati per soddisfare questa richiesta e Netflix ci dice che voi siete l'internet service provider, cioè l'operatore in generale, più veloce per vedere lo streaming di Netflix. Sì, un grande orgoglio. Siete contenti, che abbiamo. Siamo molto contenti perché siamo, diciamo che la classifica Netflix è pubblicata mensilmente in tutto il mondo, regione per regione, e per gli operatori è un po' la pagella del mese, no? Quindi è guardato, cioè, con grandissima attenzione. Telecom, Fast, siamo davanti a tutti, ormai da mesi siamo al primo posto, ma la cosa più incredibile è che raggiungiamo questo risultato solo in wireless, perché noi vendiamo solo connettività wireless, quindi con una tecnologia che fino a qualche anno fa era considerata di ripiego, di seconda scelta, faccio il wireless perché non ho nient'altro. Oggi in realtà abbiamo dimostrato, dati alla mano, che è una tecnologia che riesce a imporsi davanti a operatori che utilizzano principalmente il cavo, la fibra ottica, come diciamo, strumento principale. Voi avete dovuto rispondere all'esigenza dei consumatori perché anche tu mi confermi e mi dici che c'è stata effettivamente un'esplosione dello streaming video. Sì, da diciamo... 3 anni a questa parte in Italia c'è sempre più domanda di streaming. Sostanzialmente 3 anni fa diciamo che gli cosiddetti smanettoni, le famiglie dei cosiddetti early adopter, con l'avvento, diciamo, con l'arrivo di Netflix in Italia con contenuti italiani, poi sono arrivati tanti altri, la sempre crescita di YouTube, DAZN e così via, sempre più famiglie vogliono vedere questi contenuti in streaming. E chi oggi abita in un piccolo comune e ha una connettività DSL su rame, tipicamente non riesce a raggiungere le velocità minime per guardare questi servizi. E quindi deve, gioco forza, mollare la DSL, perché tanto anche se cambia operatore va sempre uguale, e passare a un sistema tipo il wireless. Oltretutto, quello che abbiamo registrato negli ultimi mesi, c'è stata un'ulteriore accelerata di questo fenomeno, grazie anche, diciamo, a contenuti italiani, io posso dirlo, come Rai, dillo, grazie alla trasmissione di Fiorello, Rai Play, eccetera, ha avuto un grande aumento di viewer, e probabilmente questo sta portando anche sempre più utenza a guardare contenuti online. E noi sulla nostra rete il picco di utilizzo è le 9 di sera, quindi proprio il prime time televisivo, dove proprio stanno cambiando i consumi degli italiani, che prima si mettevano davanti alla televisione in salotto, attaccata all'antenna tradizionale. Esatto. Adesso, io ho 3 figli, poi magari sono una famiglia un po' più evoluta digitalmente, però alla fine io e mia moglie che ci guardiamo un contenuto online, poi c'è mio figlio che gioca online al gioco multiplayer del momento, la figlia su Instagram che si guarda YouTube, il bimbo piccolo che si guarda le serie televisive su Netflix. Quindi ci sono 4 stream paralleli che vanno e decine di megabit di banda necessarie. A proposito di, beh, tu quanta banda hai? Ti sei fatto una, tu te lo puoi fare. Beh, io a casa ho un ponte radio dedicato da un gigabit, ma vabbè, quello. Non potevi mettere una fibra? Non arriva a casa mia la fibra. Perfetto, sei proprio l'esempio perfetto. Quando arriverà la metterò, per l'amore di Dio. Oppure quando arriverà ti sposterai in una zona dove non c'è, perché vuoi continuare a usare il wireless. No, diciamo che con un gigabit di banda ce n'è abbastanza. Senti, e alle persone normali che tipo di connettività date? In termini di velocità, di download e di upload anche. Certo, la nostra offerta di punta ha 100 megabit di banda in download e 10 megabit in upload, senza limiti di nessuna sorta. E questo, diciamo, è la nostra tecnologia su cui stiamo investendo e che stiamo adeguando alla maggior parte della rete, e che oggi è circa il 40% della rete che abbiamo è già 100 mega. Il resto, il servizio, è un 30 megabit in download e 3 megabit in upload, sempre senza limiti. Però stiamo spingendo tantissimo l'aggiornamento della rete fino a 100 mega. Certo. Perché si continua a dare così poco in upload? Ma per un allora è un po' una deriva della DSL che erano fortemente asimmetriche, con anche le tecnologie radio, per una questione di tecnica, perché comunque cerco di spiegarlo facilmente. Le tecnologie radio oggi si basano su un concetto di distribuzione del traffico che è divisione di tempo. Cioè, immaginiamo che io ho il mio canale radio che è come se fosse una strada a singola carreggiata, e la posso impiegare solo per mandare il traffico in un senso o nell'altro, ok? Quindi se io impiego tanto tempo a mandare i dati in upload, poi ne ho poco per il download. Ah, certo. Visto che tipicamente l'utilizzo casalingo è che si consuma, si prendono molti più dati della rete, allora le reti vengono configurate in modo da dare più accesso verso il download che l'upload. Poi ci sono delle tecnologie che consentono di avere due canali paralleli e andare alla stessa velocità. Certo, se uno ha delle esigenze particolari, cioè immagino che se si rivolge a voi un'azienda, voi possiate dare. Le aziende hanno dei ponti radio dedicati che hanno una tecnologia di divisione di frequenza, dove praticamente c'è una corsia dedicata a un canale, una corsia dall'altra, e quindi se hanno una banda di 100 mega, è 100 mega in download, 100 mega in upload. Però diciamo che per le reti che vanno a indirizzare l'utenza consumer sono nella modalità in divisione di tempo e quindi sono un po' sbilanciate. Senti, vista la vostra esperienza tecnologica in questo ambito, potreste andare all'estero in alcuni paesi dove la rete, magari non in Europa, in alcuni paesi dove la rete fissa non è così performante? Abbiamo richieste quasi mensili di esportare il nostro know-how all'estero, ci stiamo seriamente pensando. Oggi diciamo che abbiamo ancora tantissimo da fare in Italia, quindi stiamo concentrando le risorse appunto a finire di sviluppare la nostra rete al sud, a tappare i buchi di copertura che abbiamo centro nord eccetera, ma stiamo seriamente pensando a esportare la nostra rete anche in altri paesi. Oggi stiamo guardando i paesi dell'est, dove c'è una grande fame di banda, orograficamente sono simili all'Italia per certi versi. L'Africa? Africa abbiamo richieste, ma complesso. Complesso, perché comunque il mondo delle telecomunicazioni ovunque è fortemente regolamentato. Certo. Quindi comunque prima di andare in un paese per ottenere le licenze, le vostre antenne hanno diciamo una gittata massima o basta che aumenti la potenza e arriva, cioè può fare 5 km, 10 km, ma ne può fare anche 50? No. Beh, lavorando con le microonde con frequenze millimetriche lavoriamo con bassissime potenze, perché comunque non esistono neanche gli apparati. Cioè, le nostre radio trasmettono con potenze sotto al watt. Ah, proprio pochino? Cioè proprio sì, meno di un telefonino. Un soffio, però appunto col fatto che i clienti hanno questi collegamenti sul tetto con la parabola. Sì, punto quasi. Punto senza ostacoli. Sì. Non c'è bisogno... Che la grande potenza serve se bisogna attraversare muri, montagne, boschi. Sì. Sennò basta poco. Oggi diciamo che un ripetitore copre 5-6 km, ecco. Quindi copertura. Sì. Comunque insomma, va bene, però per coprire l'Italia bisogna metterne tanti. Sì, ti faccio un'ultima domanda per i più nerd. Io ogni tanto, adesso ho smesso perché ormai siamo entrati nella fase quasi di maturità, do sempre le notizie, comunque davo sempre le notizie di lanci di satelliti, ci sono due o tre progetti grandi, giganteschi, che puntano a coprire con centinaia e poi migliaia di microsatelliti tutto il globo terrestre per fornire connettività a banda larga. C'è quello di SpaceX, di Elon Musk, ce ne sono altri, insomma due o tre. Pensi che quello possa essere anche per i paesi occidentali un modo per connettersi alla rete internet o no? Sarà una cosa che utilizzeranno in paesi dove ci sono deserti, grandi praterie? Anche lo, dove lo c'è poca gente. Lo seguo con grande attenzione perché ovviamente mi affascina e non ti nascondo che qualche anno fa abbiamo studiato anche noi un business case se con i nanosatelliti ad orbita bassa poteva funzionare. Poi in realtà allora sono sicuramente dei sistemi di accesso ad internet molto validi per le zone a bassa densità abitativa, ma a bassa densità non intendo il paesino rurale, molto bassa, quindi i territori del nord-ovest in Canada, piuttosto che spazi sterminati in Africa, piuttosto che in Siberia, sì. Brasile, Argentina, cose. Esatto, lì sono molto validi come alternativa ai satelliti geostazionari, perché l'accesso ad internet via satellite c'è da tanti anni. Il problema è che c'è un'elevata latenza, cioè il dato ora che da una base di terra va su, torna giù, passa un secondo e poi questi satelliti, siccome coprono un'area estesissima, insomma, mezzo Europa, con una banda che è molto contenuta, possono gestire un basso numero di utenti. I satelliti ad orbita bassa, quelli che ti citavi tu prima, hanno il vantaggio di avere una latenza molto più bassa. Che sono vicini. Sono molto più vicini. Sono 300-400 chilometri. Esatto. Cosa del genere. Il problema è che scadono come lo yogurt, nel senso che ogni anno e mezzo, ahimè, subiscono fortemente l'attrazione gravitazionale, quindi vanno sostituiti. Ogni anno bisogna buttarne su un numero grande a piacere, costa tanto e il modello di business bisognerà vedere se si riesce a sorreggere. Sì. Ti dico un ultimo dato, noi oggi per coprire parte dell'Italia abbiamo 3.000 ripetitori. Ogni singolo ripetitore ha a disposizione una banda, un quantitativo di gigabit per secondo, che è lo stesso di uno di questi satelliti, che coprono però magari ogni volta che passa il nord Italia. Certo. Quindi capisci che la banda che hanno a disposizione da suddividere non è così grande, quindi non è che possono coprire, dare servizio a milioni di utenza. Sono per le zone più rurali. Vabbè, vedremo. Comunque è un tema interessante. Abbiamo visto nel mondo legato allo spazio fallimenti faraonici, quindi speriamo che non vada a finire in questo modo anche questi progetti. Grazie di essere stato con noi, a presto. Grazie, arrivederci a tutti. E così concludiamo questa puntata di 2024. Come sempre, grazie per la vostra attenzione, grazie per aver scaricato oppure ascoltato in streaming questa che è la nostra versione super podcast, il nostro file MP3 destinato ai nostri appassionati e dove mettiamo tutte le nostre interviste in edizione integrale. Continuate a scrivermi a 2024@radio24.it oppure anche Facebook, Twitter o LinkedIn sono gli altri strumenti per mettersi in contatto con 2024 e con me. Io sono Enrico Pagliarini, ci risentiamo la prossima settimana, la nostra prossima puntata. Se siete in automobile o anche in casa, io sponsorizzo molto l'utilizzo della radio in casa o anche in altri ambiti, che ne so, uno in garage a fare un hobby oppure in giardino, adesso magari non è ancora periodo di giardino, oddio, con i caldi che ci sono, o comunque in qualsiasi altro, che ne so, in officina, in un posto dove si può ascoltare la radio, insomma io sponsorizzo l'ascolto della radio. Spegnete, chiudete la TV, guardatela un po' meno, il televisore, non la TV, e quindi insomma scegliete la radio, ci sono anche tanti bellissimi oggetti da mettersi in casa, proprio il sintonizzatore radio di una volta. digitale e anche ovviamente tutti sintonizzano sia il DAB che la radio FM, laddove DAB non è o disponibile oppure non riesce ad entrare negli edifici. Dicevo, ascoltate, se siete in una di queste condizioni, noi andiamo in onda il venerdì tra le 22 e le 23 e domenica alle 13.10, perché ovviamente molti dei nostri ascoltatori che sono abituati ad ascoltare il podcast manco sanno quando andiamo in onda, però ogni tanto il fascino del broadcast, dell'emissione radiofonica con le onde elettromagnetiche che arrivano e colpiscono l'antenna del vostro sintonizzatore, si trasformano in suono, e insomma rimane molto affascinante. Lunga vita alla radio, appuntamento alla prossima settimana.